Bene, allora buonasera a tutti. Diamo inizio a questa presentazione del volume di Franco Cordero, Il brodo delle undici, l'Italia nel nodo scorsoio, pubblicato da Bollati Boringhieri. Io sono molto felice di questa occasione, sia perché si tratta di un libro di Cordero, sia perché l'interlocutrice di Franco Cordero sarà Concita De Gregorio, che io ritengo una delle voci del giornalismo italiano più acute e più sensibili, che tra l'altro ha anche il vantaggio di vedere l'Italia dall'interno con passione, ma anche con lo sguardo antropologico dal di fuori, che le proviene dal fatto di essere anche spagnola, o per essere più esatti catalana, e quindi cogliere una serie di tratti della patologia italica che spesse volte sfuggono a chi ha semplicemente uno sguardo dall'interno. E io avrò qui la funzione unicamente come direttore della Fondazione, ma anche come membro del Comitato Scientifico della casa editrice Bollati Boringhieri, di dire qualche parola introduttiva. Poi lascerò a Concita De Gregorio il compito di dire lei qualcosa e sollecitare con alcune domande il professor Cordero. Allora, la prima considerazione è i lavori di Franco Cordero, e parlo sia dei lavori, diciamo, militanti dei suoi articoli, sia dei libri, si caratterizzano per un linguaggio che io trovo estremamente innovativo, perché riesce a tenere in equilibrio una straordinaria erudizione, una straordinaria ricchezza di riferimenti e una vivacità che è in grado di, qui uso un'espressione di Elias Canetti, di prendere alla gola il presente, quindi di cogliere i nodi del nostro presente. E non fa eccezione questo libro, intanto una delucidazione sul titolo, Il brodo delle undici. Il brodo delle undici era la colazione, il brodo che veniva dato ai carcerati nel regno sabaudo, che esattamente a quell'ora, alle undici, venivano impiccati. E naturalmente questo suona anche come metafora della nostra situazione attuale. Quando ci toccherà anche a noi vederci somministrato il nostro brodo delle undici? Già nella prima pagina Cordero appunto tocca un tema, un autore che io amo particolarmente, Walter Benjamin, evoca la figura dell'Angelus Novus di Paul Klee, e dove il modo di vedere il presente è condizionato anche dalla nostra capacità di capire il cumulo di macerie che si sono determinate nel corso della storia, della nostra storia passata. Dunque si tratta di un libro anamnestico piuttosto che di un libro genealogico. È anamnestico perché l'anamnesi è un momento fondamentale per poter stilare una cartella diagnostica della condizione di un malato. In questo caso il malato è l'Italia, è il nostro paese. Quindi l'anamnesi di Cordero è tutta funzionale a una diagnosi del nostro presente. Il caso Italia, sarò brevissimo, il caso Italia si caratterizza per una lunga durata dei problemi. Io sono molto in sintonia con Cordero quando dice che l'onda breve non è sufficiente a comprendere i mali d'Italia, ma bisogna risalire molto indietro nel tempo, molto indietro nel tempo. Quindi lunga durata del caso Italia, che è dovuta alla persistenza di alcune figure archetipiche, anche oserei dire alcune maschere di carattere archetipiche che ricorrono nella storia italiana e che segnalano un vizio, che segnalano una patologia radicata nel codice genetico della nostra nazione, che per un verso è una nazione grande, anzi probabilmente una delle prime nazioni d'Europa dal punto di vista della unificazione linguistica, è sicuramente una delle prime nazioni d'Europa dal punto di vista culturale, ma nazione terribilmente tardiva dal punto di vista della unità politica. Tra l'altro condivide questo, dico tra l'altro condivide questa, diciamo, tardività politica con la Germania. Non è un caso che Germania e Italia abbiano compiuto nel XX secolo i disastri che hanno compiuto. E vi è alla base del caso italiano quella che potremmo chiamare la scena che risale a tre nomi, una vera e propria triade, la triade Savonarola, Machiavelli, Guicciardini. Tre autori che hanno, come dire, visualizzato, no, la situazione italiana in modo molto diverso, ma in modi molto diversi, ma in modi tali da determinare un crocevia. Tra l'altro qui devo dire la Bollati Boringhieri ha pubblicato di recente nella Universale Economica, nella sua prestigiosa Universale Economica, l'Opus Magnum di Cordero dedicato a Savonarola, che è una grandissima opera storica di ricostruzione di Savonarola. E prima appunto mi riferivo ad alcune figure archetipiche che ricompaiono di volta in volta nella scena politica, e si potrebbe dire che una figura archetipica è quella, e qui il riferimento al presente è assolutamente evidente, non è casuale per nulla, è la figura che io chiamerei del buffone feroce. Il buffone feroce. E l'analisi che Cordero compie in questo libro della personalità, chiamiamola così, del nostro Presidente del Consiglio è veramente disincantata e spietata, ma assolutamente lucida. Come viene fuori il fenomeno Berlusconi? Viene fuori, e mi pare lo si ricavi molto bene da questo libro, da un graduale e inesorabile processo, e qui parlo adesso dell'onda breve, del passato, tra virgolette, recente, degli ultimi 25-30 anni, da un processo di graduale e inesorabile deculturalizzazione della politica che ha caratterizzato il nostro paese. La politica si è proprio radicalmente deculturalizzata, e con questo non faccio assolutamente un discorso da intellettuale, non mi interessa assolutamente nulla la figura dell'intellettuale come ceto. Quando parlo di deculturalizzazione intendo uno sradicamento dei processi formativi, educativi dello spirito civico nel nostro paese. Una mancata visualizzazione di quella che è stata chiamata negli anni 70, e Cordero riprende l'espressione, mutazione antropologica, che è intervenuta in Italia con una malintesa modernizzazione. Alla figura del buffone feroce fa riscontro, e questo bisogna dirlo, un termine un po' impolitico, ma bisogna anche metterlo in campo, la figura del popolo arlecchino, un popolo pronto in qualche modo anche a farsi servo del nuovo padrone, è disposto a piegarsi secondo il meccanismo simbolico della servitù volontaria, con tutti quanti i mitologemi del caso. Anche qui la persistenza di una serie di retoriche, di mitologemi, è uno dei temi del libro di Cordero. E qui veniamo al nostro brodo delle undici, che è il rischio che il nostro paese sta attraversando, un rischio che Cordero ha messo in luce nei suoi articoli su Repubblica, ma anche nei suoi libri, il rischio di seppellire il meglio che la tradizione politica, ideale e giuridica dell'Italia del Novecento, il meglio che l'Italia è riuscita a produrre dal punto di vista politico, giuridico, ideale nel corso del Novecento, e cioè la nostra Carta Costituzionale. Il brodo delle undici è non soltanto un presidenzialismo, ma anche una certa figura di presidente, una occupazione delle istituzioni da parte di un tipo antropologico che con ogni probabilità ha le radici della propria fortuna nel riuscire a interpretare e mobilitare alcuni dei lati peggiori dell'antropologia nazionale. Quei lati che esattamente un'altra Italia in alcuni momenti cruciali era riuscita a contrastare imponendo un sistema di principi, e dico di principi prima ancora che di regole. Stiamo attenti a non basare la nostra battaglia soltanto sull'affermazione delle regole, ma dobbiamo battere l'accento anche sulla vitalità di alcuni principi che derivavano da una esperienza collettiva, da un complesso di pratiche collettive, da una educazione collettiva alla cittadinanza, da una educazione collettiva alla democrazia. Sono questi processi, sono queste trame che si sono per l'appunto perdute, e a mio parere questo è il rischio del nostro brodo delle 11 prossimo 21, se non riusciremo a operare quello che io chiamo, sia pure sobriamente, pur essendo come Cordero sa un appassionato assertore del disincanto weberiano, io penso, l'ho detto più volte, lo ripeto anche in questa sede, battere ancora sul tasto del disincanto significa portare acqua al mulino del cinismo politico imperante. Occorre forse cominciare a pensare a un reincantamento della politica, ridare alla politica la capacità di produrre un orizzonte di senso dell'agire individuale e collettivo, ridare prospettiva alle nuove generazioni, ristabilire il dialogo tra le generazioni, che è quello che esattamente si è interrotto e che è stato schiacciato in questo presente, in questo eterno presente del popolo di Beautiful, che è esattamente quel humus culturale che ha determinato poi, uso un'espressione di Cordero, la resistibile ascesa di Silvio Berlusconi. La parola adesso a Concita De Gregorio per l'inizio del dialogo. Grazie. Io non so se abbiate già letto il libro di Franco Cordero, mi auguro di sì e vi invito a farlo al più presto, perché trovo che sia bellissimo. Francamente non saprei come altro definirlo, nel senso che mi scuserete se vista, diciamo così, il livello a cui voleranno i miei interlocutori, io mi tengo raso terra riportando costantemente questo dibattito al meschino ambito delle cose terrene, che però è quello che frequento abitualmente, quotidianamente, e quindi mi scuso se comincio con parlare di questo libro da un aspetto, diciamo così, molto privato e forse un po' emotivo, che però è una delle ragioni per cui io amo tanto Cordero e l'ho molto amato negli anni. La prima delle due ragioni è che per molti anni mio padre, che faceva il magistrato e non viveva a Roma, mi svegliava al telefono la mattina molto presto, mi chiamava svegliando e mi diceva: senti oggi Cordero. E la telefonata cominciava molto presto al mattino con la lettura al telefono di lunghi brani. Mio padre riteneva, ed aveva ragione, che una delle virtù principali, per questo dico il libro va letto e poi dopo ne discutiamo anche i contenuti, ma una delle virtù e un debito che noi abbiamo con la prosa di Cordero è che è in grado costantemente, in maniera ammirabile, di porgere concetti anche molto complessi in maniera semplice ed efficacissima, e invece rendere sofisticati e profondi concetti apparentemente semplicissimi in un continuo sovrapporsi e mescolarsi di piani, che è una straordinaria palestra non solo per il linguaggio ma per il pensiero, in anni in cui il linguaggio si è talmente impoverito in maniera non spontanea direi, ma in maniera indotta da un diktat che è quello un po' pubblicitario, che è quello che abbiamo mutuato dal grande venditore, dal principale venditore, e che poi giù giù per i rami si è esteso anche alle forze di opposizione in un'imitazione sterile quanto improduttiva e spesso autolesionista, per cui siamo tutti quanti invitati a usare al massimo 180 parole per dire qualsiasi cosa, quando invece la nostra lingua è una lingua di straordinaria ricchezza che offre una quantità di sfumature che stiamo tutti quanti perdendo, e naturalmente con le sfumature del linguaggio si perdono, non immediatamente ma subito dopo, le sfumature del pensiero e soprattutto la capacità di esercitarlo, essendo i corticircuiti del pensiero e il flusso di coscienza che nelle parole di Cordero sono, come dire, no, la trama sulla quale il ricamo si disegna, sono esattamente la palestra che consente soprattutto a chi è più giovane, a chi non ha pratica di scrittura e di parola, consente di provarsi perlomeno ad esercitarsi su questo continuo rimando di analogia in analogia, di similitudine in similitudine, che spazia nel tempo e appunto nello spazio. Quindi intanto la ricchezza del linguaggio e quindi del pensiero, che non a caso appunto era oggetto delle nostre letture mattutine proprio per questo. Ma poi anche perché, proprio perché non sembri un discorso nostalgico, diciamo così, io credo che questo stesso valore sia un valore di cui i più giovani hanno bisogno, e pur senza saperlo sentono la mancanza, non si sente la mancanza di qualcosa che non si conosce evidentemente, ma c'è un capitolo di questo libro che mi ha suscitato, non so se posso dirlo, un'invidia feroce, perché poi Cordero ha anche questo effetto che tu lo leggi e dici: come posso non averci pensato io prima e non averlo scritto così, proprio nello stesso modo, no? Ha la capacità di tradurre. E c'è un capitolo che si intitola Una resistibile ascesa, che è un capitolo apparentemente di passaggio, sono 5 pagine, e io l'ho letto alla fine, dopo averlo letto ho pensato: questo è un rap. Cioè, questo capitolo è un rap. Lei sa, professore, cos'è un rap? Un rap è una canzone. No, i ragazzi giovani di 20 anni, quando vogliono protestare, usano una specie di cantilena che si chiama rap e dicono quasi in musica dei versi, ma è molto potente, i ragazzi comunicano così. E tanto è un rap che, siccome si ereditano anche i modi, io non telefono, ma mi irrompo nelle stanze dei miei figli e dico: adesso vi leggo una cosa. E in un gruppo di 20enni che frequentano casa mia a studiare o far finta, insomma, si intrattengono dicendo che studiano, gliel'ho letto. Ho detto: ma secondo voi ci si potrebbe fare una canzone? Loro, entusiasti, mi hanno detto: assolutamente sì. Perché io vi assicuro che questo capitolo di 5 pagine, in cui si dice, comincia con chi è Silvio Berlusconi, se chiunque di noi dovesse spiegare a un austriaco di passaggio che torni da un sabbatico chi è Silvio Berlusconi, impiegherebbe un tempo, non ne verrebbe a capo. Ecco, queste 5 pagine possono essere anche mandate a memoria eventualmente e ripetute a chi ve lo chieda, perché qui c'è scritto tutto. C'è scritto tutto in un, con dei salti logici che uno dice: ma dai per scontate delle cose. Invece no, perché c'è proprio scritto tutto. Poi uno lo rilegge e dice: non manca proprio niente. Allora, io credo che questo, naturalmente, con un linguaggio che di nuovo in questo caso, in questo breve capitolo, semplifica con un'arte che è quella sopraffina di chi è molto abituato a complicare, poi dopo riesce anche a semplificare, semplifica e divulga una realtà che effettivamente anche nei nostri colloqui da corridoio o da anticamera non riusciamo tanto neanche noi a semplificare. Quindi intanto grande gratitudine per questi aspetti, per l'aspetto della capacità di dire con una densità e con una linearità di cui ci dovremmo riappropriare, perché in effetti io non credo affatto che sia una buona idea, diciamo così, quella di procedere per slogan, no? Di farsi intendere con delle frasi semplici, perché poi gli slogan richiamano altri slogan e di slogan in slogan finiamo per parlare soltanto con il linguaggio del calcio oppure della pubblicità e non riusciamo più a comunicare quasi niente, di conseguenza molto si atrofizza anche il pensiero. Questa era la prima considerazione che volevo fare prima di venire a parlare del contenuto del libro e quindi dare la parola al professore facendogli delle domande. Il libro, per chi non l'avesse ancora letto, comincia a Milano e finisce a Milano, e comincia a Milano nel 1813, se non mi sbaglio, e finisce a Milano con Tartaglia due mesi fa. Tartaglia è quello del Duomo, cioè di moto in moto, diremmo, no? Da un moto a un altro moto. E c'ha al suo interno, appunto procede per analogie, per assonanze, e c'ha al suo interno una musica il cui controcanto mi sembra essere, e anche questo è un aspetto mirabile perché non è affatto, niente affatto retorico e non appesantisce assolutamente il discorso, anzi la presenza di Licio Gelli che diciamo al cospetto di altri personaggi politici di molto maggior notorietà per il grande pubblico, specialmente adesso di Gelli non si parla più, quindi nessuno che non abbia almeno 30 anni sa chi sia. Ecco, Licio Gelli è una specie di contrappunto, di controcanto di questo libro che ogni tanto riemerge quasi sempre nella luce del sarebbe stato meglio, era comunque, sarebbe stato uno statista persino più abile o avrebbe avuto un calibro migliore, quasi a dire che come dire, se quello era l'originale e poi tutto il resto si è scolorito. Ci sono alcuni nodi anche che tornano, uno dei quali fondamentale mi sembra è quello del sequestro Moro e della, come dire, del comportamento dell'intera classe politica in quel momento, letti o meglio riletti alla luce appunto di questa narrazione, che è una narrazione che, come vi dicevo, parte da Milano, ritorna a Milano e individua in alcuni personaggi chiave gli artefici, diciamo, di un imbarbarimento effettivamente che poi con formule di poche parole, il livello di ipnosi collettiva al quale ci ha ridotto la televisione, che è una cosa di cui parliamo costantemente, ma non ne parliamo mai con questa efficacia, che è effettivamente all'origine poi di anche di un'afasia, no? Di un'incapacità di comunicare e di pensare, perché si diceva poco fa, prima di entrare, quello che manca effettivamente, e parleremo anche del centro-sinistra, dell'opposizione, quello che manca, io dicevo, è un pensiero illuminante, il professore mi correggeva dicendo no, è un pensiero tout court, perché cioè, un pensiero illuminante sarebbe già, come dire, una... però in effetti insomma un orizzonte da indicare per coinvolgere in qualche cosa che abbia senso chi non vuole affatto essere coinvolto o non sa di non volerlo sarebbe necessario. Io comincerei a parlare, quindi ho finito la descrizione, diciamo, delle ragioni per cui questo libro è appassionante e brevissimamente dei suoi contenuti, e comincerei a parlare con lei proprio da questa figura che quasi subito nel secondo o nel terzo capitolo compare, che è quella di Gelli e del suo piano, diciamo, soprattutto rispetto, cioè, piano di rinascita in generale, ma soprattutto rispetto alla questione giustizia, perché poi gli avvenimenti che noi conosciamo, che sono propri di queste ore, lei ha finito di scrivere il libro prima del legittimo impedimento, ma poi abbiamo avuto anche il legittimo impedimento che è qui prefigurato. Sì, forse affiorava in forma germinale l'idea. Esatto. E chi la proponeva? Infatti, un esponente della sinistra. Della sinistra, esatto, che diceva secondo quello regina, che lei secondo quello regina. Che lei chiama l'ignobile logica dell'estorsione, no? Mi sembra a un certo punto la definisca così. Meglio una regina ad personam piuttosto che un danno per tutti, che è in effetti il teorema del male minore, no? Ecco. Eccolo qui, una leggina ad personam che salvi lui e limiti i danni nella triste logica delle estorsioni. E qui infatti è puntualmente avvenuto pochissimi mesi dopo. Le analogie tra il progetto di riforma della giustizia e il progetto di Gelli sono impressionanti. D'altra parte il Presidente del Consiglio aveva, o forse ha, si può dire, la tessera 1816. Se vogliamo cominciare da qui. Forse è meglio che parli al suo microfono. È un discorso triste perché evoca la famigerata commissione bicamerale nella quale i temi dominanti della questione giustizia erano definiti secondo soluzioni letteralmente copiate da quel piano di sicurezza, rinascita democratica. Non c'è riforma della giustizia della quale adesso sentiamo parlare che non fosse prefigurata nel piano di Gelli. Pubblici ministeri al servizio del ministro, spetta al Parlamento stabilire anno per anno le priorità nell'esercizio dell'azione penale. Insomma, la leva della giustizia affidata al governo. Gelli parlava come l'esponente di una retorica non populistica ma borghese. Si presentava come cattolico, sensibile ai valori morali, fermamente deciso a impedire catastrofi incombenti sull'Italia. Era quello stesso reduce dalla guerra civile spagnola a cui aveva partecipato come volontario. Credo anche perdendo un fratello che l'aveva seguito. I quadri mentali di Gelli non sono mutati dagli anni 30 ai 60, nei quali diventava un uomo d'affari abile, eclettico, pronto a fiutare l'occasione, e l'occasione gliel'aveva offerta una loggia massonica romana. Negli anni 70, padrone di questa loggia romana, definita P2 perché il puro e semplice P avrebbe causato possibili confusioni con una loggia torinese, mi pare. al vertice di questa loggia gestiva i suoi affari acquisendo file intere di aspiranti alla bella figura, al posto ragguardevole nell'amministrazione dello Stato, nella scelta degli appaltatori e via seguitando. Sono molto divertenti i ricordi di Gelli quanto alle persone che incontrava all'Hotel Excelsior, sede di questo luogo mistico massonico. Lì avvenivano le affiliazioni, le ordinazioni secondo un rito cavalleresco che risale, dicono i cultori di questo genere di cose, ai templari. Lì avvenivano le ordinazioni. Uscito di lì raggiungeva amici toscani in un ristorante dall'altra parte di Via Veneto, un ristorante la cui insegna era White Elephant, l'elefante bianco, e lì intratteneva ridendo sull'accaduto, sugli avvenimenti dai quali era reduce. Persone più o meno eminenti figuravano nelle liste che due magistrati milanesi hanno scoperto nel corso d'una perquisizione che non mirava alla P2, bensì alla raccolta di materiali relativi all'uccisione dell'avvocato Ambrosoli, liquidatore della banca di Michele Sindona. Michele Sindona, eminente massone, grande amico di Gelli, mandante d'un assassinio diligentemente operato da un italo-americano spedito in Italia e poi misteriosamente morto d'un caffè avvelenato nelle prigioni italiane. Questa è la matrice del piano di una rinascita democratica, questa è la matrice ideologica, culturale, politica. Quel piano, Licio Gelli ha disposto le cose in modo che finisse in mano alla polizia italiana. Gli interessava mandare dei segnali. Il linguaggio massonico ed esoterico in genere, pieno di simbolismi davanti ai quali io confesso la mia impotenza interpretativa, non saprei trovare un significato, ma dovevano averlo questi gesti se li ha compiuti. Ora è stupefacente che riforme del genere, orientate a una regressione agli anni anteriori a Giolitti, quanto alla storia italiana, è stupefacente che queste formule, tali e quali, fossero riprese nella bicamerale da persone appartenenti al giro centro-sinistro ed erano l'argomento di una possibile intesa transattiva che l'attuale Presidente del Consiglio ha ritenuto conveniente far apparire come possibile. A lui interessava disinnescare certi pericoli. Il pericolo micidiale dal suo punto di vista era che quel mostruoso conflitto di interessi fosse risolto da una legge, e c'erano tutte le premesse per farlo, visto che il centro-sinistra disponeva di una cospicua maggioranza nelle due Camere, aveva un governo. La bicamerale è nata proprio per impedire che fosse toccato qualcosa nell'equilibrio perverso nato negli anni 70, culminato nella legge Mammì. Al momento buono, avendo realizzato tutti i possibili profitti, quando non gli conveniva più giocare la commedia del negoziatore, ha rovesciato il tavolo, la bicamerale è fallita, si è sciolta vergognosamente. Il governo di centrosinistra ha vissuto altri due o tre anni costellati di figure piuttosto miserabili. Si è detto incidentalmente in quei due ultimi anni del secolo XX, il Parlamento italiano ha votato alcune leggi e ritoccato un articolo della Costituzione con effetti sul processo penale, e erano leggi architettate nel segno d'un garantismo chicaneur, d'un garantismo inteso a rendere impossibile il processo nei confronti, un processo fisiologicamente concluso da una decisione nel merito di condanna o assoluzione, nei confronti di imputati abbastanza forti economicamente da potersi permettere difese il cui prototipo abbiamo visto nei processi berlusconiani. Quindi molto della, chiamiamola, cultura berlusconiana è germinato sotto un segno politico diverso. Nei tardi anni 90, quando l'Italia era governata dal centro-sinistra. Io la ringrazio. Prima di venire all'oggi, di parlare di questo, volevo ancora fare alcune notazioni su questa vicenda Gelli, perché occupa, come vi dicevo, una specie di contrappunto musicale in tutto il libro. Molti capitoli finiscono o si interrompono dicendo era meglio Gelli, Gelli e Metternich davanti a lui, Gelli è più spirituale, cioè si fanno delle descrizioni, poi si conclude. Aveva uno stile. Ecco, il capitolo era meglio Gelli. È un capitolo che si sofferma sulla famosa intervista fattagli da Maurizio Costanzo il 5 ottobre del 1980 sul Corriere della Sera, ve la ricorderete tutti, era intitolata, se non mi sbaglio, il fascino discreto dei poteri occulti, qualcosa del genere. Era il titolo dell'intervista e si dava un quadro abbastanza impressionante, diciamo, di quello che sarebbe poi successo nei successivi 20 anni, direi. Io ricordo che una quindicina di anni fa, forse 10-12 anni fa, ho intervistato Gelli, sono andata in quel luogo che si chiama Villa Wanda, dove lui attende eternamente il Nobel per la poesia, e c'è sempre un comitato che lo promuove, non è uno scherzo. Sì, mi pare che abbia collezionato dozzine di premi letterari di poesia. Esatto, e lui già allora mi disse quanto alla riforma della giustizia vorrei il copyright. In effetti, voglio ricordare che i nomi trovati negli elenchi a cui faceva riferimento erano poco più di 900-950, ma gli iscritti alla loggia P2 erano 2500. Ora, considerando la frequenza con cui ancora la politica attuale è incarnata da ex, perlomeno quelli che conosciamo, dobbiamo immaginare che ce ne siano più che altrettanti, perché 900 è un terzo di 2500, se la matematica ancora mi soccorre. Quindi i due terzi potrebbero essere, non so, anche qui in questa sala, non so dirvi. Comunque viviamo da 30 anni nell'inconsapevolezza di quale sia la parte mancante di questo esercito, e però il progetto, il piano, si dispiega con una certa militare precisione, mi pare. E tutt'oggi il piano di riforma della giustizia, che è stato recentemente in maniera così anche folcloristica riassunto dall'attuale Guardia Sigilli, somiglia in maniera impressionante a quel piano, che prevedeva effettivamente, dopo aver discusso di sindacati e di giornali, di occuparsi di giustizia. Lei, quando parla in questo passaggio del libro, quando parla di Sindona, il salvatore della lira, no? secondo Andreotti, e si sofferma su quello che definisce il clou di questa vicenda, cioè il caso Moro, mi piacerebbe che ci riassumesse qui in che senso e perché, secondo lei, vista oggi, la vicenda del sequestro e dell'uccisione di Aldo Moro sia stata uno spartiacque anche da questo punto di vista, cioè rispetto all'attuazione di questo progetto. Ma io non sono in grado di individuare le sequenze causali, gli anelli tra un fatto e l'altro. Il caso Moro mi ha lasciato sgomento. Ancora adesso non riesco a capire come certe cose siano potute avvenire. Un apparato poliziesco appena decente sarebbe venuto a capo del caso in 4 e 4-8. Ogni giorno piovevano notizie che avevano l'aria di segnali intesi a non si sa bene quale effetto. Risultava che qualcuno lanciava la notizia che Moro fosse stato ripescato cadavere da un lago abruzzese. Non era venuto niente di tutto questo. Moro era inquilino coatto di un appartamento in una via il cui nome era noto agli investigatori. Colpiva il coro, il coro in cui ricorrevano voci in una chiave tra epica, tragica e ferocemente morale. L'idea dominante era questa, che bisognasse non trattare con i sequestratori. Era sottinteso che l'esito fosse la morte dello stadio. Io ricordo di aver letto da qualche parte o sentito dire che la strage della scorta implicava sul piano morale che non fosse negoziato il rilascio dell'ostaggio. E questa è un'etica degna delle Erinni, personaggio mitologico che Eschilo presenta nella trilogia Agamennone, divinità infernali che perseguono, anzi perseguitano, gli autori di certi delitti contro l'ordine familiare. Quindi Moro doveva morire, secondo costoro. Quello che è certo è che se fosse uscito vivo da quella avventura, sarebbero capitate cose dell'altro mondo. Insomma, la nostra situazione attuale in qualche misura differirebbe da quella che viviamo. Cioè, si può dire che politicamente c'è stata tutta una parte a cui non sarebbe convenuto che Moro... Non so. Quello che colpisce è l'inefficienza dell'apparato poliziesco, l'inefficienza del Ministero degli Interni, in cui si è detto ancora incidentalmente lavorava la P2. C'era un comitato di specialisti che ora per ora stabiliva il da farsi, ed erano tutti piduisti costoro. La sensazione era che non lo cercassero, che fosse considerato come il peggiore degli eventi possibili una liberazione, e che qualcuno abbia respirato con sollievo quando lo hanno trovato non lontano di qui, nel bagagliaio di un'automobile. Ora, sono avvenimenti questi non suscettibili di un'analisi razionale. Io non riesco a capire niente qui. Non riesco a trovare un disegno razionalmente plausibile. Mi lasci leggere qualche riga di questa pagina. Dice: parliamo del clou, l'affare Moro. L'indomani del rapimento affida al suo consigliere politico due dimissioni epistolari, diversamente motivate secondo i casi Fausto e Nefasto. Era affar suo, parliamo naturalmente del ministro dell'interno, era affar suo la protezione dell'uomo politico più esposto, non vi ha provveduto. E sta bene dimettersi, però prima lo salvi. La storia dei 55 giorni è un capitolo nero. Al Viminale tiene banco la P2, nel cui teorema Moro sta dalla parte del diavolo. Varie persone ne rispondono inomittendo. 32 anni dopo, l'arciresponsabile scrive dell'argomento senza vergogna né rimorso, ritenendosi uomo prode nella scelta mortuaria, come se la debacle ministeriale fosse imputabile ad altri. Narra d'aver sofferto, in 2 mesi gli vengono i capelli bianchi, li compensa uno sbalorditivo cursus honorum culminante sul colle attraverso i palazzi Chigi e Madama. Le cosiddette rivelazioni vanno prese con beneficio d'inventario. Che i comunisti fossero ostili al negoziato era noto, ma sentiamo l'aneddoto. La DC apriva piccoli spiragli contemplando qualche ipotetico contatto fuori da Croce Rossa o Amnesty International. Al secondo tentativo Enrico Berlinguer manda l'ultimatum. Vieti tali passi o il PC revoca l'appoggio esterno. A parte gli aspetti morali trascurabili, nella prospettiva marx-leninista, non è segno d'acume. Moro era l'assertore di una politica nuova. Tolto lui, in quel modo, tutto sarebbe potuto accadere, meno il cosiddetto compromesso storico, infatti, sale la stella Craxi, il cui allegro governo sappiamo dove conduca. Questa è la sintesi. No, perché si parlava anche di Cossiga e di Andreotti, adesso non abbiamo tempo. Qui vogliamo parlare dell'oggi. Da allora ha rievocato quei fatti in un libro di memorie l'anno scorso. Sì, no? Appunto. Questo. Senza sentirsi particolarmente, non dico colpevole, ma a disagio. In fondo era un suo scacco professionale. Però se questo è uno snodo, diciamo, non sembri che stiamo parlando del passato, perché stiamo parlando del presente, quindi è i protagonisti di questa vicenda, quelli superstiti, sono ancora tutti in luoghi di potere e di comando. Io volevo passare però ad altro adesso, volevo passare a parlare del Caimano, da cui il film. Sapete che il film di Moretti trae lo spunto dalla definizione di Franco Cordero. E soprattutto di quello di cui si parla sempre, cioè della adesso il tema ricorrente è il problema non è lui, ma sono gli italiani che lo votano. Allora, vediamo che cosa scrive Cordero. Dice, parla dell'Italia. I pochi abitanti del territorio arido dimenticavano la scrittura, qui langue senza nervo sintattico, eclissata da immagini e rumori. 30 anni d'anticultura sono una lobectomia. I fedeli non pensano più, parlano ripetendo frasi elementari dettate dal cervello collettivo. Chirurgia mediatica. Estirpata la memoria, vivono un presente assoluto. Quindi lo stregone può disdirsi impunemente. L'audience non rammenta il già detto, né, mutilata dell'organo sintattico, avverte le contraddizioni, sicché 2 più 2 è 5 o qualsivoglia numero. L'iconografia del regime, l'invasore, i discorsi, le feste, i visi, filastrocchi e decaudatari è un monumento di una precipitosa regressione come le rovine micenee. I posteri diranno se il fenomeno biopsichico sia meno intrattabile del clima. L'invasione non avviene d'un colpo, siamo al 30° anno, datandola dall'atto natale della SRL Canale 5 Music, 12 novembre 1979. Abbiamo una data d'inizio dunque. Questo già, diciamo, perché siccome questo libro sembra scritto fra 40 anni, no? Un'altra caratteristica di questo libro è che uno lo legge e pensa che sia un libro scritto nel futuro, invece è scritto nel presente ed ha una capacità incredibile di riorganizzare anche cronologicamente gli eventi e sintetizzarli. Allora, la mutilazione, la chirurgia mediatica che estirpa la memoria e ci fa vivere in un presente assoluto, in questa sorta di ipnosi, mutilati dell'organo sintattico, compie il 30° anno, anzi 31esimo, perché siamo nel 2010. Vogliamo parlare di questi 30 anni da questo punto di vista, dal punto di vista della scientifica, del scientifico, come dire, costruire e declinare un disegno che porti all'ipnosi. Certo, perché meglio di come l'ha già scritto non potrà farlo, però la invito a farlo diversamente. Beh, ma qui si trattava semplicemente di raccogliere ricordi, cogliere fatti che abbiamo sotto gli occhi cercare dei nessi abbastanza evidenti. Sciaguratamente è avvenuto tutto nel senso di una causalità irresistibile, ed era avvenuto tutto già negli anni 70, nei tardi anni 70, quando la legge Mammì che avrebbe consacrato il duopolio televisivo, rendendo inespugnabile la posizione dell'occupante pirata, perché era una pirateria quella esercitata fino a quegli anni. La legge Mammì era stata votata da una Camera. L'altra aveva introdotto degli emendamenti, tornava alla prima, che credo fosse la Camera Bassa, Montecitorio. La sinistra democristiana si era schierata bellicosamente su posizioni di dissenso. Gli argomenti, terzo incidente discorsivo. Allora, nessuno aveva colto l'importanza di ciò che stava avvenendo nella forma di un conflitto di interessi in stato di incubazione ancora. Nessuno si rendeva conto dell'importanza di evitare, nessuno nel pubblico, dell'importanza di evitare che la legge Mammì fosse votata. Ed è curiosa questa mancanza di percezione della importanza politica dell'evento nel pubblico. Curiosa perché nell'aula parlamentare gli argomenti erano risuonati. Era chiaro che si trattasse di una manovra con cui un governo della Repubblica italiana faceva carte false nell'interesse d'un impresario dalle origini affaristiche oscure. La sinistra democristiana si era opposta. Contava, non ricordo se 4 ministri, 5. Il gesto estremo tentato dai dissidenti sembrava tale da non lasciare alternative al Presidente del Consiglio. Gli hanno detto: se questa legge fosse votata, noi usciremmo dal governo, ci dimetteremmo. Sarebbe stata una crisi scandalosa. Il Presidente del Consiglio era Andreotti, che non ha battuto ciglio. I 5 si sono dimessi e li ha sostituiti, non so se quel giorno o nelle 24 ore, la Camera ha votato disciplinatamente. Tutto questo succedeva nel 1980, 85, 90, 90 o 89. Direi 89, però va bene. 89. Nel giro di due anni è esploso l'affare giudiziario. Esploso non perché qualche stregone tirasse le fila, ma perché in qualunque punto, qualunque pubblico ministero indagasse trivellando superficialmente il suolo, sarebbero saltate fuori cose enormi in termini di corruzione, peculato, concussione. Era mutata l'atmosfera e questa seconda Repubblica è caduta da sola, c'era la corsa dei corrotti e dei corruttori a negoziare con i pubblici ministeri indaganti la propria sorte e il beneficiario di quella strategia culminata nella legge Mammì è sceso in campo 1993-94, è sceso in campo sicuro di vincere, perché aveva un elettorato pronto, se l'era allevato in vent'anni di trattamento televisivo, quella lobectomia che abbiamo sentito nominare poco fa, avveniva in forma incruenta attraverso lettere sugli schermi. Si è presentato come salvatore d'un paese con l'acqua alla gola, come uomo nuovo, lui che era il prodotto di tutti gli avvenimenti interiori, anteriori. Nella forma più parassitaria, più tipica. E quando sarebbe stato possibile, non dico invertire il corso delle cose, ma tentarlo efficacemente, e cioè dei 5 anni della legislatura dominata dal centro-sinistra, abbiamo visto poco fa cosa invece sia avvenuto. Ecco, su questo punto, no, sul punto del centro-sinistra mi vorrei soffermare adesso, cioè sulla, anche per parlare, diciamo, dell'oggi e del domani, cioè su, a parte l'analisi terrificante che lei fa di quello che è avvenuto, abbastanza, diciamo, precisa e soprattutto della, nel migliore dei casi l'incapacità di comprendere, nel peggiore forse di una inerzia colpevole o peggio di una complicità o connivenza con questo progetto per altri interessi, naturalmente non per i medesimi, immagino, speculari e contrari. In questi giorni, in queste ore, si discute della questione mafia, Gomorra, no? Chi è che getti discredito sul paese, se chi dice che la mafia esiste o se la mafia, l'esistenza stessa della mafia. Su questo punto nel libro si parla non di questo episodio ma di altri analoghi molto spesso. In un passaggio lei scrive: i maldicenti, le ultime prediche battono sul rispetto dovutogli, volano insulti e calunnie, i maldicenti offendono l'Italia. Inutile dire dove miri la ringhiosa doléance, una tutela penale della figura carismatica. Sminuirla costituisce vilipendio. Ne vale l'exceptio veritatis, proscioglimento quando l'asterto risulti vero. Nel modello berlusconiano meno la gente pensa, meglio è. Va dunque represso l'esercizio agonistico della parola. Finché tocchino lui o affini, condannerà le intercettazioni. Assunti i pieni poteri, obiettivo naturale, sarebbe appena normale il controllo capillare dei sudditi. Siccome la legge sulle intercettazioni sarà la prossima, diciamo, questo, il legittimo impedimento l'abbiamo appena avuto, le intercettazioni sarà il prossimo passaggio. Io mi domando e le domando, secondo lei, se per questa opposizione, se per questo centrosinistra c'è un margine di manovra, o se invece questa ventennale o trentennale, abbiamo detto, paralisi progressiva del pensiero abbia diciamo contagiato, abbia riguardato anche il pensiero di chi dovrebbe opporsi. Chi dovrebbe opporsi appare in certe situazioni risolutive singolarmente perplesso, fiacco, disorientato, esce in discorsi virtuosi che lasciano le cose al punto a cui erano. Circola il dubbio abbastanza fondato tra chi ascolta questi discorsi di una propensione in questo giro a intese, non è chiaro esattamente come orientate. Quante volte abbiamo sentito dire io faccio politica, la politica implica la ricerca del possibile, non siamo più ai tempi delle chiusure ideologiche, delle idee fisse, e non vorrei che qualcuno considerasse come politicamente possibile un negoziato con chi nega la logica elementare del discorso politico. Lei dice che l'animale caimano nasce privo di etica. L'animale caimano nasce ben dotato di istinto ma privo di etica, quindi negoziare con un alligatore, diciamo. Il caimano, come anche lo squalo, è un animale sotto vari aspetti enormemente superiore all'uomo dal punto di vista biologico. ha dei riflessi formidabili, dispone di un sistema di comunicazione, di ricezione dei messaggi che noi non sogniamo nemmeno. D'altra parte, chi voglia farsi qualche idea in proposito, fa bene a prendere una Bibbia, aprirla al libro di Giobbe, leggere quel che succede a questo sciagurato Giobbe, sciagurato perché scopre, o meglio, non lo scopre perché ignora i retroscena, a un certo punto diventa il paziente di una scommessa tra Yahweh, il creatore, e Satana, uno dei suoi figli. Frequentava ancora il cielo Satana allora. Un giorno si presenta a corte e, essendo intelligentissimo, più intelligente del creatore, lo provoca. Il creatore gli domanda da dove vengo, ho fatto un giro intorno alla terra, e lui si esce in una vanteria. Allora avrei visto Giobbe, avrei visto che persona eminente sia in fatto di religione, di devozione, e Satana comincia a sgretolare le certezze di Yahweh. Sfido, gli va bene tutto, è ricco, ha una famiglia numerosa, sana, prova a colpirlo e vedrai se continuerà a essere così devoto. Yahweh accetta la scommessa, pone dei limiti in un primo tempo, si è colpito ma solo nel patrimonio. Poi via via concede di più, perché vince le scommesse parziali. Giobbe, nonostante le disgrazie, rimane fedele al culto di Yahweh. Alla fine concede mano libera a Satana, purché sopravviva Giove, purché non sia ammazzato, però muoiono figli suoi, familiari. La cosa terrificante è il discorso che tengono gli amici di Giobbe. Ci sono tre amici falsi, solidali, fingono compassione, in realtà vengono a dirgli cose spiacevoli. E il senso del loro discorso è: le cose, sei così sciagurato perché devi espiare qualche colpa. Giobbe si difende negando d'essere colpevole, e viene fuori un lungo discorso in chiave pessimistica sulla sorte dell'uomo, sulla scarsa affidabilità delle promesse divine. Poi arriva un quarto interlocutore, che è un giovanotto rampante in cerca di carriera, e rincara la violenza degli maligna degli argomenti usati dagli amici. Alla fine irrompe Yahweh sulla scena, parla dalla tempesta e tiene un discorso terrificante dal punto di vista di una moralità evoluta, perché il senso è questo: tu osi discutere la mia giustizia, sei un essere infinitesimo, non conti niente, io sono l'architetto del cosmo, dove eri quando io ho imbrigliato il mare, quando sono nate le montagne simili? E dovendo addurre un esempio di potenza biologicamente perfetta, chi tira in ballo? Leviathan, il coccodrillo. Quando sbuffa fuoco dalle nari, gli angeli piangono in cielo. Ha una corazza che lo rende invulnerabile. Il fiume ribolle quando emerge. È chiaro che stia identificando se stesso con Leviathan, questo capolavoro della creazione. E il gioco riesce, nel senso che Giobbe, atterrito, si butta in ginocchio, ammette di aver parlato temerariamente. La cosa più triste è l'epilogo lieto, perché riottiene tutto quello che aveva perso, meno i figli morti, almeno la Bibbia non parla di resurrezioni, e questo happy end è una tristissima conclusione, perché è il funerale del concetto di una giustizia divina. Ora, Leviathan, il coccodrillo, è effettivamente un capolavoro della creazione dal punto di vista della perfezione meccanica. Nessun dubbio che il creatore, ammesso che esista un creatore, sia formidabile meccanico, sia biologo, sia vulcanologo, oceanografo, peccato che gli manchi la sensibilità etica che è un prodotto umano, è una laboriosa e faticata e dolorosa secrezione dell'anima umana. Ora, il Signore del quale parliamo non temerariamente è paragonabile a Leviathan, perché la sua prassi ha gli automatismi perfetti della macchina. Io non ho mai colto in dubbio, non ho mai avuto la sensazione che temesse qualcosa, e nemmeno che calcolasse. I coccodrilli non calcolano, hanno il calcolo è il debole stratagemma a cui ricorre l'animale umano, la cui unica forza è ciò che San Tommaso chiama ratio. Il ragionamento da premessa a conclusione, incerto, problematico. Lui agisce di istinto, agisce seguendo i riflessi. A questo punto la partita diventa impari, se consideriamo che ha trasformato in elettorato quella massa stupefatta, estatica, di voyeurs dello schermo, la cui presenza era saltata fuori già negli anni 70, quando due magistrati hanno, o tre, mi pare, avevano, applicando una massima della Corte Costituzionale in tema di libertà d'uso dell'etere, avevano non oscurato, come dicono cronisti male informati, le televisioni berlusconiane, ma avevano vietato che quelle emittenti trasmettessero fuori della zona in cui, stando alla sentenza della Corte Costituzionale, era lecito usare l'etere. La risposta immediata è stata un Dunque tutto questo avveniva nell'ottobre, possibile, dell'84, voglio dire. Craxi, presidente del Consiglio, era a Londra, è tornato subito. Qui a Roma è andata in scena una sacra rappresentazione al Sistina, mi pare. Lo stratega conduttore dell'operazione scenica era Maurizio Costanzo. Il popolo delle televisioni berlusconiane a gran voce invocava la fine di questo embargo, la cessazione di questo barbaro oscuramento. L'oscuramento se l'era fabbricato lui per scatenare i suoi, e non credo che fosse simulato questo gesto collettivo di protesta. Effettivamente avevano bisogno di quello spettacolo serale. Tutto questo capitava 25 anni fa. In 25 anni l'effetto si è moltiplicato. Ricordo che quell'anno andai a intervistare una bambina che aveva organizzato una festa fra i suoi compagni per protestare contro i giudici cattivi che volevano togliere i puffi. E questa bambina, che aveva 6 anni, si chiamava Araba Dell'Utri ed era la figlia di una... era la figlia di Dell'Utri, che aveva organizzato a 6 anni, naturalmente non lei, aveva organizzato una mobilitazione di coetanei per dire salviamo i puffi. No, nel senso che nulla è successo per caso. Lei dice: il caimano, il coccodrillo non conosce gratitudine quando parla della quanto poco si sia speso per contribuire a far assegnare a Massimo D'Alema il ruolo di ministro degli esteri europeo. Quindi un coccodrillo anche ingrato, diciamo, da questo punto di vista. Però la domanda che vorrei farle, poiché oggi ormai siamo oltre queste riflessioni, siamo già un po' al cercare un antidoto, una cura o una possibile risorsa da qualche parte, e si dice quindi che Berlusconi non è né la causa né la conseguenza dello stato del paese, ma è la sua autobiografia in questo momento. Allora io, lei scrive a un certo punto a proposito di questo: ha dissolto le ideologie in allucinatorio edonismo immorale, plebeo analfabeta. La politica diventa illusione di una fortuna acquisibile da chiunque abbia tupé. Se è riuscito lui o lei, mi butto anch'io. Vecchi rimasugli della piccola borghesia letterata passano dalle odi barbare a quiz, lotterie beautiful. Ha disegnato sulle sue misure una specie umana a levandola, riconosciamogli l'exploit. Ecco, questo, diciamo, l'analisi è abbastanza chirurgica nella sua precisione, però l'effetto è terrificante. La domanda che io le faccio è questa: gli italiani ormai sono così? Gli italiani ormai sono così? C'è Bocca, per esempio, Giorgio Bocca dice: il problema non è Berlusconi, sono gli italiani. L'esito delle ultime elezioni non è stato consolante sotto questo aspetto, no? Sembrava che fosse sgretolato, che la sua figura qualcosa avesse patito nell'opinione pubblica. Non è così, evidentemente. A questo punto il da farsi è un problema politico. Quale lo strumento più efficacemente adoperabile? Ma a me sembrerebbe ovvio che il più efficacemente adoperabile sia il discorso crudo e chiaro. E questo discorso deve cominciare dal chiamare le cose col loro nome. dall'intavolare le questioni davvero capitali. La questione capitale non è attualmente il questo o quel modo di usare le scarse risorse dello Stato, ma come scongiurare una definitiva occupazione dello Stato da parte di una persona e del suo seguito, persona e seguito insensibili ai valori elementari della civiltà politica, al punto da non afferrare il senso delle frasi con cui uno li evoca questi valori. E questa linea frontale di opposizione passa attraverso l'esatto opposto di ciò che molti strateghi dell'opposizione predicano. Costoro dicono che il l'antiberlusconismo non paga. L'antiberlusconismo viscerale è nocivo, non porta da nessuna parte. Continuando su questa strada, tra 20 anni saremmo ancora all'opposizione. Quindi, è sottinteso, diamoci da fare in cerca di alternative. Tra le quali alternative non escludono affatto una solidarietà tattica con frazioni della attuale maggioranza. Ora, ripeto, a me sembra ovvio che un atteggiamento arrendevole del genere equivalga a suicidio. Significhi, ti riconosco come legittimo interlocutore. Questo riconoscimento della legittimità dell'interlocutore riduce l'autore dello stesso a una situazione insostenibile di inferiorità, perché potrà soltanto perdere al tavolo del gioco imposto dal vincente. L'etica non è popolare, ma è l'unica arma adoperabile, con qualche speranza di successo, magari non immediato. Invece dai tempi della bicamerale abbiamo assistito a tentativi puerili, in fondo fatui, di adoperare il fenomeno Berlusconi, di approfittarne. Insomma, questi politicanti si consideravano più furbi di lui, più abili, e non si sono resi conto del fatto che le partite giocate secondo le sue regole sono partite perse. È triste dal punto di vista di un'analisi storica notare come dietro questa insensibilità, dietro questo difetto di percezione, ci sia un fondo di immoralismo diagnosticabile già nel tardo comunismo italiano. Ormai le ideologie non pesavano più, il cinismo ecclesiastico prevaleva, ecclesiastico perché era una chiesa secolare, il vecchio partito comunista. A un certo punto, e qui uso una frase a effetto usata da Giolitti nella prima decade dell'altro secolo, gli i vari Albertini, l'allora direttore del Corriere, i vari, insomma, gli esponenti dell'opinione moderata, erano atterriti dalla prospettiva di un'apertura a sinistra, di un ingresso dei socialisti riformisti nel governo, ciò che Giolitti avrebbe voluto, perché si rendeva conto della impossibilità di escludere il grosso dell'elettorato dal gioco politico. E nella risposta ha detto, lui che passava per un cattivo parlatore, incapace di citazioni letterarie, ha trovato la frase a effetto, ha detto: ma il marxismo non è più una difficoltà, perché hanno spedito Marx in soffitta. L'etica è in soffitta nel gioco politico attuale. L'unico che usi parole grossolanamente riconducibili a quel repertorio è lui, Berlusconi, quando parla di amore contro odio e simili. Ma nei discorsi degli altri io trovo tutto, fuorché la percezione del punto cruciale. Il punto cruciale è che in Italia stiano avvenendo cose che altrove non sarebbero pensabili, non sarebbero potute avvenire. Negli Stati Uniti, e gli Stati Uniti non sono poi un modello di sensibilità spirituale. Negli Stati Uniti uno che versasse in quella situazione mai avrebbe messo piede nel gioco parlamentare e governativo. Così in Inghilterra, così nella Germania, che è passata attraverso l'esperienza hitleriana, ricominciando da zero. Noi siamo arrivati a una assuefazione oltre la quale non so che cosa ci sia. Qualcuno ha mai più nominato il conflitto di interessi? No. L'altro ieri abbiamo letto sul giornale la risposta del Presidente del Consiglio alla minaccia di Fini. La minaccia era: potremmo formare dei gruppi parlamentari autonomi, si accomodino, saranno 24-25, me li riprendo uno a uno, ha detto. Ora, questo me li riprendo uno a uno è una formula piuttosto esplicita, trasparente, non ha bisogno di esegesi. E il fatto che vada in giro in cerca dell'ennesima villa da comprare non disturba nessuno, non viene nemmeno notato. Nessuno considera un dato elementare come questo. Ricco com'è, qualunque è coinvolto e implicato come beneficiario o come parte colpita, parte sofferente, di qualunque decisione economica importante presa dal governo, perché è dappertutto. L'aria che respiriamo non sappiamo se sia ancora, se sia già sua o sia ancora respirabile. Ora, tutto questo significa situazione con poche vie d'uscita. L'unica, non via d'uscita, ma l'unica politica praticabile, azzardo a Ma rischio a dirlo, io che di politica non so niente, è l'apparente rinuncia al pragmatismo. Sono dei pragmatici questi sapientoni che spiegano come non convenga battere la via dell'anti-berlusconismo perché perderemmo all'infinito. Sono dei pragmatici quelli che oppongono la politica al discorso nelle nuvole. L'autentica praticità adesso consiste nel giocare la carta della moralità, del discorso chiaro, sperando che il pubblico non reagisca, perché il pubblico non è detto che sia stupefatto al punto da non capire i termini elementari della equazione. L'Italia poi è un paese i cui abitanti tradizionalmente hanno manifestato doti di straordinario tempismo nel cogliere l'occasione buona per uscire da situazioni difficili. E gli italiani sono organicamente infedeli, molto sensibili all'autoconservazione. Il modo in cui l'Italia si è scoperta antifascista nel luglio del 1943 è un precedente da considerare. I tedeschi nell'inverno del 1945 continuavano a combattere, combattere fuori d'ogni calcolo di sopravvivenza. Di salvezza. Qualcuno può darsi che lo facesse per evitare di finire in mano ai russi, preferiva finire in mano agli americani e agli inglesi, ma Hitler non aveva perso il carisma, sebbene nessuno lo vedesse più. Mussolini, appena le cose sono cominciate ad andare male, e io le ricordo perfettamente queste atmosfere perché avevo più di 10 anni e allora è diventato un essere vituperevole. È tipico degli italiani questo cogliere il momento. Quindi non fosse altro sotto questo aspetto varrebbe la pena tentare la carta del discorso moralmente orientato. Senza stancarsi, ripetere le cose capitali. C'è un conflitto di interessi da risolvere. Non è ammissibile che il Presidente del Consiglio sia anche padrone del paese in cui viviamo. E via seguitando. No, mentre lei parlava mi sono venute in mente alcune cose a proposito dei tedeschi e degli austriaci che continuavano a combattere. Ci deve essere. Ricordo che quando ci fu la donata dei volontari alle giornate della gioventù, il Papa precedente, vi ricordate che a migliaia e migliaia si trovarono a Tor Vergata, no? Noi eravamo lì e a un certo punto furono date delle istruzioni precisissime sul da farsi quando il Papa se ne fosse andato, perché naturalmente era un accampamento di migliaia di persone. Una volta che è finito l'avvenimento, il Papa va via, c'è il problema della transumanza, no? Quindi furono date delle indicazioni precisissime su chi si dovesse muovere per primo, molto lunghe, molto dettagliate. Papa se ne andò e dopo un istante ci fu il caos assoluto, per cui tutti si alzarono e se ne andarono, salvo gli austriaci e i tedeschi, che rimasero immobili, il blocco degli austriaci e dei tedeschi rimase, cioè, completamente sopraffatto. No, per cui voglio dire che c'è, gli italiani poi sono traditori un po' gaglioffi e inclini alla voltare gabbana quando capita, e altri popoli meno, ma ci sarà poi anche, c'è senz'altro anche una spiegazione. Ecco, permetto un istante, secondo me questo cinismo degli oppositori è perfettamente percepito dalla platea, dal pubblico, che li giudica organicamente perdenti, non vale la pena giocare su costoro, quindi italianamente cerchiamo una sopravvivenza dall'altra parte. E continuando la politica delle collusioni sperabili od operabili, questa situazione si aggrava. Sì. L'unico modo di romperla e cambiare. Allora, la domanda, l'ultima cosa che le volevo dire, proprio, lei evocava l'immoralità che c'è al fondo di questo atteggiamento. Io vorrei anche soffermarmi un momento sulla coazione a ripetere, perché voi ricorderete che Berlusconi era finito, c'è stato un momento storico molto preciso in cui la sua stella politica era tramontata. E se non fosse stato perché è stato richiamato al tavolo della discussione bicamerale e poi quel che ne è conseguito, forse avrebbe, ma insomma, visto lo stesso, sicuramente non allora e sicuramente non in quelle condizioni. Allora, siccome la memoria tampone, quella ce l'hanno anche i telefoni, diciamo, dura po', non dico la memoria di lunga gittata, ma quella breve, la memoria breve, perlomeno chi fa politica di mestiere dovrebbe esercitarla, mi domando anche se, escludendo la possibilità che tutto questo sia stato dimenticato da chi lo ha fatto, mi domando se non ci sia in questa, appunto, coazione a ripetere, non del masochismo, perché non mi pare, ma invece della malafede in qualche misura, o comunque una specie di cupio di solvi che porta al tanto peggio tanto meglio, tanto non l'avremo fatto noi, se non siamo riusciti a farlo noi non lo farà nessun altro dopo di noi, no? Nessuno sarà capace di farlo se non ci siamo riusciti noi. Questo è un po' il lascito, questa è la percezione che si ha. Io lo dico perché dalla mia piccola postazione, però comunque la postazione di un giornale storico importante di quell'area politica, io sono assolutamente d'accordo con il professor Cordero quando dice bisogna rialfabetizzare parlando di civiltà, di etica, di valori, di cultura, quindi facendo un discorso persino emotivo di lunga gettata, di lungo profilo, no? Io sono anche contraria, diciamo, a questo giustizialismo un tanto al chilo che anima le piazze e che si esaurisce e si estingue in questo animare le piazze, perché poi alla fine è come dire, è sufficiente alla autoassoluzione, ho fatto quel che dovevo, sono andato in piazza, ho gridato, tutti ladri, tutti al rogo, però poi non si declina in un'azione politica, anzi al contrario, è spesso diciamo, speculare il contrario, è un contrappeso necessario di questa. Quindi sono convinta, e del conflitto di interessi, io per esempio nel mio giornale parlo continuamente e dei processi ai quali Berlusconi è sottoposto parlo continuamente, però noto e parlo costantemente di una nuova, cioè di quello che manca, dello sguardo luminoso della traiettoria, del traguardo, che non sia il dito da guardare ma che sia la meta, e però noto, devo dirlo con franchezza, una grande freddezza anche rispetto a questo atteggiamento, che è quello di fare un giornale che sia un giornale capace di suscitare qualche emozione insieme al pensiero, no? Che possa rimobilitare qualche cosa, perché è considerato inutile sostanzialmente. Ma un punto fondamentale in questi ultimi mesi era l'immunità voleva procurarsi e alla fine si è procurato. L'opposizione non ha dato l'impressione di prendere molto sul serio l'argomento, anzi sentivamo dire agli italiani interessa fino a un certo punto tutto questo. Parliamo della disoccupazione, questa è retorica, la retorica delle parole semplici, dei discorsi elementari. L'autentica politica lì sarebbe consistita nel prendere una posizione chiara, ma non perché l'uomo ispiri odio, bisogni perseguitarlo e simili, perché non è pensabile in una repubblica del secolo in cui viviamo quello che succede. Non è pensabile che qualcuno tenga a bada l'apparato giudiziario procurandosi una impunità che grida vendetta. Sono questi i problemi politici da intavolare, non dico da risolvere perché mancano i numeri, però non sarebbe lo stesso che l'immunità fosse il prodotto ignobile di una sopraffazione contro cui l'opposizione ha fatto il possibile. Ancora più ignobile è che esponenti dell'opposizione si siano lasciati andare a dirlo chiaro. A noi non interessa tutto questo. Se la fabbrichi questa legge, dopodiché tratteremo sulle cose che contano. Questa è una resa senza condizioni, è un modo di, può darsi che sia profittevole dal punto di vista di singoli interessi individuali, ma certo è catastrofico dal punto di vista dell'interesse collettivo, perché tutto ciò in cui possiamo sperare è che una opposizione degna di questo nome giochi le carte migliori. Bene, ho sentito anche dire che il legittimo impedimento in fondo è il male minore, sempre nella logica del male minore, perché perlomeno, questa è la tesi dell'opposizione, di una parte dell'opposizione, perlomeno avendo varato la legge sul legittimo impedimento non ci sarà un alibi per fare la riforma del processo, e invece vedrete che arriverà anche la riforma del processo, perché poi diciamo al peggio non c'è fine. Non credo affatto che l'aver fatto il legittimo, l'argomento è: poiché esiste una legge sul legittimo impedimento, non avrà bisogno, essendo sostanzialmente, diciamo, per questi 18 mesi immune dall'obbligo di presentarsi in aula, non avrà bisogno di destrutturare, definitivamente demolire quel che resta del sistema giudiziario, intercettazioni e cosiddetto processo breve. Ma non è così. I giuridici, era una estorsione questa. Era un'estorsione, infatti, è andata a buon fine. Mi pare, no? È andata a buon fine, ma l'aveva giocata già la carta dell'estorsione 2 anni fa. Allora la minaccia era un blocco dei dibattimenti, che secondo certi calcoli avrebbe significato qualcosa come 50-100.000 processi dissolti nella prescrizione. Ma l'altra tecnica è quella di spararla sempre più grossa, perché se lei si ricorda, professore, dopo il lodo Alfano, una settimana dopo lo si è rimpianto immediatamente, perché quello che la proposta, diciamo, alternativa al lodo Alfano c'è stata una pubblicistica di 3 o 4 giorni, diceva no, però allora facciamo al meglio il lodo Alfano di questa proposta generale. Insomma, e poi alla fine. Insomma, chi conosca i precedenti della storia europea novecentesca ritrova questa sequela di cedimenti motivati dal teorema del male minore, li ritrova ad esempio nel rapporto tra Francia e Inghilterra e Hitler nei tardi anni 30. Tanto per fare un esempio. via via cedevano su questioni giudicate passibili di transazione. Chamberlain, l'inglese, sperava di orientare l'espansione nazista a est, scatenando Hitler contro Stalin, finché si, hanno resistito, e è scoppiata quasi per sbaglio la guerra, che sarebbe stata evitata da atteggiamenti meno compromissori, meno deboli. Purtroppo è una partita con scarse chance questa, perché fortemente pregiudicata dagli errori passati, ma certo la tattica migliore non è insistere nell'errore. Giacomo, vuoi dire qualcosa tu? Ma sì, siamo, mi pare, arrivati più o meno alla conclusione di questo dialogo molto intenso e, no, diciamo, non per concludere, ma per un commento, anzi una glossa in margine, per usare un termine aulico, chiaro, di caro Accordeo. Ma insomma, diciamo tre considerazioni proprio finali. La perdita di tensione etica della sinistra, intendo di tensione etica, cioè anche etico-emotiva, cioè la capacità di mobilitarsi su principi e di ribellarsi quando determinati principi, determinate regole vengono patentemente violate. Poi questa è la cosa, questo meccanismo reattivo, no, che la sinistra deve avere, fa tutt'uno con la mancanza di chiarezza della sinistra. Sono le due cose, cioè è divenuta meno lucida, il che ha determinato come effetto inevitabilmente una frantumazione, cioè l'opposizione è frantumata. Quando io parlo di opposizione intendo non soltanto l'opposizione politica, diciamo, ma l'opposizione potenziale che potremmo avere all'interno della società. E qui dico una cosa anche grave, cioè una opposizione radicale non rappresentata può dar luogo anche a forme radicali di lotta e di violenza. Non dimentichiamo che il nostro paese ha già conosciuto la violenza. Io sono molto preoccupato di frange giovanili, appunto insegnando lo vedo, lo percepisco, di frange giovanili che potrebbero estremizzarsi in quel senso. Questa è la prima considerazione. La frammentazione che è il derivato di tutto ciò. Seconda considerazione è limite, quindi vengo proprio all'altra parte, non da Berlusconi, cioè il limite della sinistra è stata non soltanto di avere avuto paura di andare contro Berlusconi, quindi paura di essere anti-berlusconiana o, come dice il mio vecchio amico Massimo Cacciari, di essere abbagliata dai Berlusconi. Ma quello c'ha il potere, come fa a non essere abbagliato? Dico, sta lì, ha il potere, dico, decide quotidianamente le nostre vite, come fa a non essere abbagliato? Allora, ecco, il difetto è stato quello di promuovere un inseguimento dell'antropologia berlusconiana, della proposta dei leader che in qualche modo si propone. Ora non voglio dire che Veltroni fosse una cosa di questo genere, ma però sicuramente c'era un inseguimento di tipo mediatico nei confronti di Berlusconi, politica dell'annuncio. Giocavano la sua partita. Esatto, giocavano la sua partita. E in fondo gli riconoscevano di avere prodotto un fenomeno salutare nel nostro paese, che era il fenomeno della semplificazione. La semplificazione, c'è un polo, noi facciamo l'altro polo che è autosufficiente, eccetera. Abbiamo vinto come centrosinistra, come forse, tra virgolette, uso un termine che non amo, progressiste, ogni qualvolta abbiamo proposto dei leader antropologicamente agli antipodi. Io non sono un particolare estimatore di Romano Prodi, però abbiamo vinto due volte con lui, che è esattamente il contrario antropologicamente di Berlusconi. Stranamente dico agli antipodi. Poi non è certamente un angelo, non corrisponde né al mio... Anche il caso Vendola in Puglia è un caso analogo, cioè un caso diciamo diverso, ma però antropologicamente quindi significa la stessa cosa. Quindi assolutamente, appunto, assolutamente d'accordo con te. Aggiungo un'altra cosa, e non è per retorica che l'aggiungo. In Francia la sinistra sembrava defunta, è venuta fuori proponendo, per superare lo stallo, tre leader, tre donne come leader. Ora, non è questione, ma è possibile che la politica italiana e la sinistra italiana non sia in grado di favorire l'emergere di una soluzione di questo genere? Chiudo con l'ultimissimo punto. Se non ci sarà una reazione da parte delle componenti democratiche a livello politico e sociale, la situazione che mi configuro io fra 3 anni è la seguente: Berlusconi al Quirinale, su un paese devastato e frantumato in tre parti, il nord egemonizzato dalla Lega, che vede di buon occhio Berlusconi che se ne sta al Quirinale perché romperà meno le scatole, per usare una metafora tradizionale, al sud tendenze sudiste, più o meno mafiose, paramafiose, clientelari, paraclientelari, e il Partito Democratico relegato alla funzione di partito regionale nel centro Italia, finché dura. È un pessimo happy end, come sì, appunto tu dicevi prima. E sentiremo ripetere da qualcuno dei notabili di questo partito che la situazione dipende dall'errore dell'aver cavalcato la tigre dell'anti-berlusconismo. Appunto, così. E questo è un esempio di quanto si sia logorata l'arte del discorso, no? Certo. Usano parole che non significano niente, formule a effetto. Per concludere vorrei dire che avevamo iniziato parlando di manutenzione dell'ordinario, questo scenario dell'Italia divisa in tre parti con il centro-sinistra relegato alla manutenzione degli asili nido di Modena, diciamo, mi fa un po', fa veramente impressione. Però vorrei dire, no, è veramente, nel senso che alla fine è la manutenzione della gestione ordinaria. Vorrei dire che a proposito delle donne francesi, io sono molto... diciamo, dell'avviso, forse non politicamente corretto, ma insomma che non basti essere donna, nel senso che ho conosciuto donne in politica terrificanti e ne conosco attuali terrificanti, però quindi non faccio un discorso di genere per il genere, voglio dire, da con... sì, insomma, gli esempi che abbiamo sotto gli occhi, ma anche dei leader di livello internazionale, non mi piacciono, non tutti. Non mi sarei identificata in Condoleezza Rice, per esempio, ma che pure è una donna di valore, voglio dire, ma non c'è. Ma poiché la questione morale in Italia è diventata prevalentemente una questione di incontinenza sessuale, scusatemi se lo dico così, ma è così, cioè se voi guardate gli ultimi scandali che noi abbiamo avuto, sia quelli che non hanno prodotto nessun esito, cioè diciamo l'estate calda del Presidente del Consiglio che sembrava essere in bilico sull'orlo del baratro e invece non è successo assolutamente niente, 40 ragazze alla volta, va benissimo così, maggiorenni o minorenni non fa niente, ma diciamo in entrambi gli schieramenti, perché abbiamo avuto Marrazzo, Del Bono e Frisullo, che sono tutti casi di incontinenza, di incapacità di gestire una sfera che perlomeno insegnavano un tempo che nel periodo breve dell'esercizio del potere si potesse anche tenere sotto controllo, invece non è così. Constato che con le donne questo non succede. Perlomeno questo non succede, cioè sia a destra che a sinistra, dalla Poli Bortone alla Lorenzetti alla Bresso, non abbiamo avuto gigolò. Quindi magari è una fase, diciamo, poi dopo potrebbe peggiorare, però non per il momento questo non è accaduto. Sì, esatto, votano, e questo lo so. Infatti il problema non è Berlusconi, ma sono gli italiani che lo votano, e torniamo al grande tema, e le donne che lo votano, sì. Però insomma il senso del rinnovamento inteso anche come... Poi io ho un'amica che dice sempre, in fondo gli uomini hanno governato per 2000 anni, adesso tocca per i prossimi 2000, toccherebbe a noi, quindi se ci vogliamo dare il turno. No, è solo una battuta, però il tema è molto serio, e c'è una tesi che studiano in America che si chiama la teoria del glass cliff, la scogliera di cristallo. Un tempo si diceva il tetto di cristallo, no? Le donne non arrivano oltre un certo livello di potere, adesso non è più così. Le donne vengono chiamate sull'orlo del baratro dalle grandi multinazionali, è un fenomeno, diciamo, lo studio dei gruppi università americane che stanno facendo delle ricerche, si chiama la teoria della scogliera di cristallo, per cui quando nessuno vuole più assumere quel compito, perché è un caso disperato, perché è dato per perso, perché comunque bisogna licenziare 400 persone, perché tanto fallirà in ogni caso, perché è una battaglia impossibile, arrivano le donne, che a volte ce la fanno e a volte no. Però per esempio la battaglia per il Lazio, secondo me, è un caso classico di glass cliff, perché nessuna delle due candidate era stata indicata dal leader dei due schieramenti, no? Una era la candidata dei Fini, l'altra era una candidata che si è auto proposta, e che il Partito Democratico, con 3-4 giorni di tempo, ha poi però insomma un tempo di reazione anche lungo, ha poi appoggiato, e non so quanto convintamente. Per cui credo che siamo di fronte, se avessimo il lusso di poter parlare di questo, purtroppo non ce lo possiamo permettere perché le emergenze sono altre, però sarebbe interessante anche cercare di capire quali sono le possibili vie di fuga da questa situazione, per quanto provvisoria. Vi ringrazio di essere stati con noi, ringrazio il professor Cordero e Giacomo Marramon. Arrivederci.